Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Mi dispiace doverlo dire, ma ho ricevuto dei messaggi che non mi sono piaciuti all'indirizzo di una persona che incontro ogni tanto in treno. È la giovane sentimentalmente instabile, ma non perché questa sia una patologia, perché è una ragazza gentile, appassionata, che ama illudersi, che cerca l'amore, cerca una persona che le stia stabilmente vicino, ogni tanto pensa di averlo trovato, ma ahimè il genere maschile oggi tende a non impegnarsi. L'ho vista più volte, mi ha raccontato le sue storie, dei suoi fidanzamenti. Questo ha fatto irritare tante ascoltatrici che mi hanno scritto perché non ammettono che una donna in maniera così leggera parli di queste cose, del sentimento. Vabbè, non so, fate voi, vedetela fra donne. L'ultima volta che l'ho incontrata ha trovato un uomo più grande di lei. Lei che ha 25 anni aveva trovato un cinquantenne. Sembrava felice. Sembravo felice anch'io perché dico, vedi, finalmente esiste una giustizia nel mondo, anche un cinquantenne può trovare una ragazza giovane appassionata, una bella storia d'amore. Invece te la rincontro adesso in treno e dalla faccia capisco che anche questa è andata male. Stai acquisendo consapevolezza della tua autonomia. Di disastro amoroso in disastro amoroso tu stai crescendo, ti vedo molto bene. No, assolutamente. Tutti questi disastri amorosi alla fine hanno... Per me la vera iattura, sei stata fidanzata, quanto è stato al massimo? 2 mesi, 3 mesi? No, allora, una volta sono stata fidanzata 4 anni. E 4 anni, non sapevo più che dire, ogni volta ti incontravo... Però ero... No, l'ultima che non avevo mai racconti, sono stata insieme 2 anni, però ci siamo lasciati varie volte comunque, c'è stato... Sì, ma era sempre la stessa cosa, non c'era novità. Sì. Oggi hai novità su cose. No, allora oggi ho novità su cose... Sei trasformata, un'altra persona. No, in realtà sono triste. Dunque, vediamo se ricordo bene, c'eravamo lasciati che avevi una storia d'amore fantastica con un artista. Sì, ma la storia d'amore fantastica qui. Beh, così la dicevi te. No, a me piaceva, ero innamoratissima e sono innamoratissima di lui. Ma cosa, non è innamorata? Beh, sì. Quindi sì. È finita la storia? Sì, ovviamente. Quanto è durata? 4 mesi. Ma sono stati 4 mesi intensi? Sono stati 4 mesi intensi, non ci siamo visti tantissimo perché ci vedevamo alla fine una volta, 2 a settimana. Beh, la media con cui si vedono le persone. Sì, sì, vabbè, non è che convivevamo o altro, in più non era... Se no durava 2 giorni, no? 2 mesi. Sì, e, no, in realtà è finita per... Adesso c'è stata Pasqua, il ponte del 25 aprile... E quindi sì, le storie d'amore con le feste finiscono. Con le feste. Uno torna a casa dai suoi. Esatto, lui ha fatto vacanza con i suoi. Mamma e papà dissuadono sempre. No, mamma e papà. Lui è un pochino più grande, cioè 20 anni più di me. Quindi stava con chi? Con i nonni? Con i figli. Con i figli. I suoi figli è un incentivo a vivere la propria vita, poi, no? Sì, no, stava con i figli. E ma io... con l'ex moglie, pure. E l'ex moglie. Sì. Allora, beh, ti sei risposta da solo. È un ritorno a casa. Ma no. Torna no. A casa Alessi. No, assolutamente. Lei gli ha fatto l'occhino con la lacrima. Ma no. Potremmo riprovarci. No, non è proprio questo. Che ne sai, me te lo dice a te. Ma no, ne sono sicura, non è proprio questo. Ma te lo dice a te, non te lo dice mai. Però ci ha ripensato, in fondo. Ma no, no. No. Con questa donna ho fatto dei figli. Ma figuriamoci se torna. No, perché? Non è quello il problema. Che ne sa? Ma no, ormai. Guarda caso, va in vacanza con l'ex moglie e ti lascia. No, non è andata così. Durante tutte queste vacanze, e a me non dava assolutamente fastidio il fatto che stesse con l'ex moglie e col figlio. Anzi, mi sembra una cosa. Di solito un'ex moglie è l'equivalente di, che ne so, di un collega d'ufficio. Di una sorella. Ah, no, sì. Sorella, sorella, diciamo. Vabbè, bene. Comunque, anzi, mi faceva. Sorella è la frase tipica che dicono gli sposati. Vabbè, mi faceva. Viviamo come fratello e sorella, stronzata. Mi faceva anche piacere, insomma, vedere che comunque. Non avevi distrutto una famiglia. Questo. No, ma vabbè, io non c'entro nulla con questa separazione, però vedere comunque un uomo che sta con i cucciolotti, che sta con i cuccioli, che tenerezza. Pensi, sì, potrebbe, esatto, fare con me la stessa cosa. Esatto. Già pensavi. E invece all'atto fecondatore, sì. Ovvio. L'ha capito subito. Ma sono innamorata di lui. Vabbè, che innamorata, invece, uno quando è innamorata vuole un figlio da nome. Beh, io sì. Ma ognuno dovrebbe scriverci: sono stato vasectomizzato. Rimarrebbe solo, non avrebbe mai una donna. Vabbè, no, sarei disposta. Vabbè, non lo so. No, comunque, vasectomizzato non ci fai. Vabbè, ho 28 anni, è ovvio che mi. L'orologio biologico comincia a ticchettare. Questa comunque frenesia dei figli, vabbè. Dai. Vabbè, ma non è una frenesia, è natura. Cioè. Vabbè, ma ti rendi conto? Cioè, io scapperei a mille miglia anche se avessi 20 anni, dai 20 ai 70. A una che mi dice natura, voglio i figli. Cioè, però l'hai fatto un figlio. Ha fatti due. Vabbè, ma erano, cioè, altri tempi. Altri tempi che? Altri tempi quando avevi la mia età. Cioè, e allora, sì, scusa, sì, più o meno, sì. E quindi che, beh, di che stiamo parlando? Il senno del poi ti dice, però, col senno del poi non andavano fatti. Vabbè, no, sì, andavano fatti, che discorso. Ma tu vuoi il fidanzato o vuoi il padre dei tuoi figli? Questo. Certo che le due cose vanno, le due cose vanno assia, essendo. Sì, ma se tu vai a scegliere un uomo che già ha figli con un matrimonio fallito alle spalle, tutto vorrà meno che ripetere lo stesso esperimento. Vorrà una compagna leggera e piacevole. Perché sei così. Trovati come un pischello con i tuoi stessi interessi. Ma non ti è andato bene manco con quello. Ho capito. Io non è che trovo una persona. Cioè, se mi innamoro di una persona, mi innamoro di una persona. Poi sarà, adesso entriamo nella tua storia. Entriamo nella lui. Tua storia. Entriamo nella tua la storia. Mia storia è che non ci siamo sentiti. Cioè, grande. Ci vogliamo molto bene. Ci piacciamo molto. Solo che lui c'ha un po'. Ti si vuol bene, si piace, sta insieme comunque. Esatto. Però c'ha un po' di blocchi. E di tipo sessuale. Di. Sì, titubanza. Vabbè, titubanza. Ha un problema erettivo. Che no, so? no, assolutamente. No, vabbè, è molto complicato. Vabbè, complicato. Diciamo, o funziona o non funziona. Titubanza nell'iniziare una nuova relazione, ecco, questo è il problema. Ma come è cominciata la storia? Ah, la storia, ecco, è cominciata la storia. Sai, ci siamo incontrati in un pub. Il giorno in cui lui stava passando la prima notte che lui passava da solo nella nuova casa dopo essersi separato. Ma un bel coraggio. E si è messo subito con te quel giorno? No, non è che ci siamo messi insieme. Aveva voglia di riempire quel vuoto. Ci siamo conosciuti, abbiamo passato tutta la notte a parlare. Era. Ma dove? Sempre nel pub? Nel pub. Era aperto fino a mattina? Sì, è un posto che è aperto fino alle 5 del mattino. E alle 5 che avete fatto? Io poi sono andata via, ci siamo scambiati i numeri e io sono andata via. Ma lui non ti ha detto vieni a prendere qualcosa a casa mia? No, io sono andata. Era talmente assurdo questo incontro che mi sembrava di sportarlo. Vabbè, le cose assurde sono le più belle, scusa. Vabbè, poi comunque mi ha scritto 10 giorni dopo e abbiamo iniziato comunque a frequentarci. Una relazione. Diciamo una relazione. Lui dice sempre mi trovava tanto simpatica. Questa è stata. Ma lui voleva che una compagna di bisboccia o. No, lui mi ha detto io non posso avere una relazione adesso. Beh, questo è logico, lo puoi capire. Perché però. Dopo. Anni e anni. Devi ricostruire la sua autonomia, non è esatto. Facile. Alle spalle dei figli, cioè non è una cosa esatto. Che te ne liberi. Infatti, io ho detto: vabbè, aspetto i tuoi tempi, aspetto tutto, vediamo. Però comunque ci piaceva stare insieme. Quindi che. Ma questo poi lui stare era comunque tormentato, mi faceva sempre sospiri quando mi abbracciava, poi mi faceva certo per averti incontrato adesso. Ma quando l'hai incontrato? Quando ancora c'era la moglie? Magari tra un anno, quando sei ripreso. Il treno va. Bentornati a bordo. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Scusa, la cosa difficile è chiudere il rapporto. Una volta l'aveva chiuso, era libero. Che. No, perché si deve ricostruire. Lui mi abbracciava e mi faceva sempre questo suono. Così. Sospirava, faceva. Non ce la faccio, così. Sì, questa cosa. Io non lo sopportavo. Faceva. fatto... No. Vabbè, e quindi a un certo punto gli ho detto, guarda, basta. Non potevi fargli bere un mezzo bicchiere di super alcolico prima di abbracciare? Ci ho provato. Lo so, però magari la sera così, poi però al mattino si svegliava, abbracciava così, tutto tenue, poi... partiva. Qual era il problema? Il problema è avere tra le braccia una ragazza con la quale mi trovo così bene, però incontrarla nel momento sbagliato della mia vita. Ma perché sbagliato, scusa? Perché, no, perché io comunque perché tu volevi riaccasarti. Io farei casetta con lui, capito? E lui così, tu potevi fare come tutte le persone normali, si frequentano, escono, fanno qualche fine settimana assieme, poi le vacanze. Il problema... un anno di relazione. No, l'avrei fatto. Il problema è che tra un incontro e l'altro non ci si sentiva mai. A me questa cosa mi metteva tristezza. Quindi tu gli hai messo l'ansia alla prestazione? No, mi metteva tristezza, ma nemmeno con una professionista. Cioè, non mi faceva un regalo, non mi scriveva una cosa carina. Poi quando ci vedevamo era come se fossimo marito e moglie, però mi metteva tristezza. Cioè, tu lo riportavi nella sua routine per cui era abituato, il suo imprinting era quello di fare il marito. Molto, sì, sì. Ma nel frattempo giaceva con altre donne oppure? All'inizio sì, poi mi hanno detto che... Ma queste cose non si dicono mai comunque. Vabbè, all'inizio me l'aveva detto per essere perché non c'era un rapporto. No, vabbè, anche per essere chiaro, per non illudermi o altro. Magari a te non interessava. Tra l'altro, mi è pure capitato una sera di uscire e di ascoltare persone che parlavano di lui e raccontavano di come lui ci avesse provato Vabbè, però posso dire una cosa: era l'euforia di tornare scapolo. Esatto. Adesso dice che già è scemata. Comunque, insomma, non ci si sentiva mai. A me questa cosa mi metteva tristezza. Allora. Cosa ti aspettavi? Ti mandava i cuoricini, i gattini? Ma non lo so, io magari gli mandavo una pagina di un libro e lui non rispondeva. Vabbè, sai che palle la pagina del libro. Vabbè, dipende. Cioè, dipende, come che palle? Ma tu stai lavorando, facendo un'altra cosa, stai sul bidet, arriva la pagina del libro. Ah, vabbè. Allora la pagina di una foto di un culo. Ma che no, lui non voleva essere affrettato, non voleva persone che gli mettessero fretta. Lo so, ma io sono così. E tu c'hai fretta? Io c'ho fretta, io c'ho ansia. E se c'è ansia, devi mettere con un ex sposato che ha 20 anni più di te. Infatti, non è andata. Infatti, io gli ho scritto. Ma giustamente. Infatti, io gli ho scritto un. Che gli ha scritto? Un messaggino? A un certo punto, dopo che gli ho fatto gli auguri di Pasqua con una foto carina, lui mi ha risposto con un messaggio che sembrava qualcosa che avesse mandato a tutti i contatti. Quello standard che abbiamo in memoria. Esatto. Grazie, ti ringrazio. Un messaggio standard all'indomani. Ti chiamo dopo. Esatto. All'indomani gli ho scritto una cosa. Sei rimasta male? Una cosa che faceva che gli ho scritto sì. L'ho scritto. Lui mi chiama Gioiellino. Mi chiamava Gioiellino. E io gli ho scritto. Nell'intimità Gioiellino. No, così. Mi faceva. Sei proprio un gioiellino, però. E quindi mi dice sempre. Come un anellino da mettere lì. Esatto, come una cosina da tenere. No, un gioiellone. Gioiellino. No, un gioiellino. Faceva sempre il sospiro. E poi sei proprio un gioiellino, però. Cioè, un gioiellino. Peccato cosa. Averti conosciuto oggi. Esatto. E io allora gli ho scritto a Rutrisa, gli ho fatto. Era sì, uno di questi giorni di festa. Ho scritto: gioiellino, sei opacizzato. Che vuol dire? Insomma, mi sento triste. Sei opacizzato. Dico, vabbè, con questo messaggio, no? E non gliene sbattuto. Sortirò. Non mi ha risposto. Messaggio. È finito la vostra comunicazione. Ore 12:07, alle 22:47 ancora non aveva risposto. Io mi ero messa a letto a dormire, mi sono rialzata col telefono in mano ad aspettare, mi sono alzata e ho fatto vabbè, non si può vivere questa vita. Quante ore hai aspettato? Mi sono versata il vino. Quante ore hai acceso aspettato? Una sigaretta. Dalle 12 al mezzogiorno alle 10, ho aspettato 10 ore e 47 minuti. Ma poi se non l'avesse visto, l'ha letto? Ma che non l'avesse visto? L'ha letto? Ma sì, ma c'ha la doppia spunta blu. No, quella l'ho tolta, ma tanto cioè comunque ma ti pare che non. Allora gli ho scritto ricevuto forte e chiaro, ciao. E lui che aveva risposto? E lui mi ha mandato il papiello per mollare. Cioè, non per mollarmi. Il papiello. Devo leggertelo? Beh sì, è fondamentale. Allora, vi siete lasciati quindi su WhatsApp praticamente? No, guarda, lascia stare. Vabbè, allora, cioè, succede sempre. Ma a me è normale. E allora lui mi ha scritto: faccio quello che posso fare, so che è poco per te. Mi dispiace un sacco, credimi, ma la mia vita adesso ha una serie di pensieri e priorità che sono incompatibili con qualcosa di più di questo. Ma è onesto, scusa. Vi è della crudeltà in questo, lo so, ma non posso fare di più e non riesco a fare diversamente. Però è stato onesto. Infatti io gli ho scritto, lo so, non ti giudico, so tutto, il fatto fondamentale è che mi sento triste. Sì, però scusami. Non è poco, che palle. Vabbè, ho bisogno di un poco di più di zampatine. E poi ho scritto: Gesù, ci stiamo lasciando su WhatsApp, ho pure addosso la tua maglietta. E lui mi ha risposto: sento come ti senti. Oddio, è triste e sono impotente. E io gli ho fatto: beh, questo l'avevamo capito, l'avevi già accennato. Ma questo suo no, poverino. E io gli ho scritto: non so che dire. Boh, ciao, vado a dormire. Ti dirò che vado a dormire, non ci siamo più sentiti. Ti consiglio una cosa crudele che ti aiuterà, però. Vai. Si è trovato un'altra. Ma che hai trovato un'altra? Ma sicuro si è trovato un'altra. Un'altra più leggera, così tranquilla. Magari una che lo usa come toy boy e via. Ma. E non si pone problema. Lo sai cos'è? Lo ha annichilito la tua aspettativa. Devi aspettare un pochino prima di farlo impegnare, capito? Prima restava bene con ma te. Ma io a me bastava qualche messaggio in più. Sì, ma perché tu non gli facevi sospirare nulla, eri sempre lì disponibile. Di usare un metodo un pochino di tirartelo un pochino non... di più. Ma lo so, tu sei generosa. Le persone che generose. Devo snaturarmi no. per fare. Devi una... accettare per il tuo destino di persona generosa. Esatto, non le persone, è che posso... Le persone furbe e calcolatrici nei rapporti ottengono molto di più perché usano un metodo. Esatto. Ti fanno sospirare, tengono sempre un retroterra, scompaiono sì. che tu devi cercarle. Tu eri sempre lì pronta. Sì, sì. Ma questo capita ognuno di noi quando una persona è sempre pronta dice: vabbè, la chiamo dopo, la chiamo domani. Sì, tanto sì. è lì. Purtroppo devi dargli l'impressione che non eri lì. Ma io non sono, non riesco a fare una tattica. Poi faccio una tattica e sbagli e ottengo qualcosa che non, che, non, che non è aderente a ciò che ma sono. No, un non risultato ti puoi improvvisare. Per qualcosa. Cioè. Bisogna accettare il proprio modo d'essere e queste sono le conseguenze. Sì. È che un'altra più furbetta avrebbe fatto cuocere a fuoco lento, piano piano. Sì, ma lui, è intelligente. Quindi lui capisce che non... Beh, l'intelligenza apprezza, conta poco. No, ma secondo me apprezza poco. Il fatto stesso che io non abbia attuato una tattica. Lui aveva bisogno di un'amica come sei stata te. Un'amica sì. affettuosa che gli riempisse giustamente in maniera sì, sì. positiva e creativa i fine settimana. Però io non... Non aveva bisogno di sfogo, voleva un'amica. Sì, forse sì. era meglio che cominciavate da amici lo so. Prima di mettervi assieme, poi magari sarebbe venuto dopo. Ma nemmeno ci siamo messi assieme, però insomma, non lo so, qualsiasi vabbè, cosa avesse ci va a letto, bisogno... Quando uno ci va a letto assieme, dai, su, gli amici non ci si va a letto. La differenza fondamentale fra un amico e una relazione è andare a letto, sì. solo quello, il discrimine. Tu puoi andare a fare 20 fine settimana. Sì, ma io con non posso essere amica sua. Ma sì, ma mi piace, tempo. Mi piace ma, troppo. Ma giustamente, cioè, perdi che tempo. Che fa? È ipocrisia. Ma poi è una noia andare a fare l'amica con una che ti piace. Ma sì, no, che... ma sei una donna. Solo che adesso qual è il punto? Devi dimenticarlo. Sì. E quindi devi cercare un chiodo che scacci il chiodo. Beh, basta. Lui era il chiodo per scacciare l'altro chiodo. Ma sempre così. Quando cominci col chiodo scaccia chiodo, è una fila di chiodi che non finiscono più. No, adesso in realtà. Stai sublimando? No, sì, non... Una fase zen? Sì, lo aspetto, magari tra un anno torna. Questo è possibile, sai? Lo aspetto, basta. Ma aspetti, tu sei in attesa? Non mi interessa nessun altro, io proprio lo aspetto. Proprio una fase zen, sembra quella sposa giapponese che andava tutti i giorni alla stazione per anni. Che devo perché fare? Non si è presentato il suo fidanzato dopo decenni, capito? E hanno mangiato insieme il sushi. Mi piace solo lui, voglio lui, che devo fare? Beh, tutte le persone innamorate pensano questo, che la persona sia unica. Quindi sei ancora innamorata te. Vabbè. Però vedi come il metodo ha funzionato su di te. Sì. Lui sottraendosi ti ha fatto innamorare. No, vabbè, mi ha fatto innamorare anche quando insomma, non. Non lo so. Il tuo amore non sarebbe tale se non ci fosse stata quella sua assenza fra un tuo WhatsApp e l'altro. Vabbè, può essere, il desiderio nasce dall'assenza. Ti avesse riempito di gattini, di cagnolini, di cucciolotti, di volpini. Io non è che l'ho riempito di volpini. Beh, sì, dai, mandavi tutti gli animaletti. No, vabbè. Tutti gli animaletti, dai. Quanti oddio, un po' di animaletti. Cosa mandavi? Gattino col cuore? Mandavo il torello. Perché lui era del toro. Beh, sì. E poi lui mi mandava la farfalla blu. Certo. E su WhatsApp. No, ci mandavamo tanti. Un po' di. Vabbè, poi gli mandavo il cuore giallo. Il cuore giallo che vuol dire? È un cuore che non è rosso, però cioè, giallo è un po'. È un po' disimpegnato. Un po'. Non è. Telegram c'ha degli animali molto. No, questo su WhatsApp. Gli mandavo la foglia, le zampette del gatto. Poi il mezzo cetriolo mai. No, il mezzo cetriolo mai. Lui una volta mi ha mandato un cuore rosso. Vabbè, ci mandavamo. Tu tieni tutto naturalmente in memoria, non hai cancellato nulla. No, io non solo non ho cancellato nulla, ho scaricato la. Come tutta si la dice? Chat della vostra. Tutta la chat, me la sono mandata per email, per tenerla, per poterla. Dovessi mai perdere il cellulare, così ce l'ho, posso rifare analisi testuali a posteriori. Così, punto per punto, però capisci punto qualcosa per riguardando, che ne so, quando mi mandò le due ciliegie, voleva dire qualcosa, quando gli ho mandato la nuvoletta con il sole. Allora, c'è stato un. c'è stato un periodo in cui io non avevo scaricato l'ultima versione di WhatsApp, quindi, e lui aveva quella invece successiva. Con le quindi figurine, tutti con gli emoticons che mi mandava, in realtà mi appariva una cosa strana, una faccetta di un alieno, un punto, no, mi appariva un punto interrogativo. E tutte le volte lui mandava questi messaggi pieni. E non sapeva che voleva dire. E io immaginavo fossero tutti cuori. Invece poi io mi immaginavo questa sfilza di cuori multicolori a ogni messaggio che gli mandavo. Invece poi quando ho scaricato WhatsApp e la nuova versione, finalmente andando indietro, poi mi ho visto tutte le emoticons originarie e non c'era nemmeno un cuore, erano tutte, non so, farfalle, monopattini. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Quanti mandano il cuoricino? Fa caso ancora? Lo mandano tutti. Un cuore per sempre. Anche gli amici mandano i cuoricini, tutti. Ah, vabbè, è carino. Dici una cosa, arriva il cuoricino. Sì. È carino. Cioè, bel super cuore che indica veramente un sentimento amoroso. Il super cuore, c'è quello. Che tipo si ingrandisce, pulsa, pulsa. Sì, Non so, forse la gif animata del cuore, sennò non c'ha senso. Vabbè, è andata così. Ma sei allegra, però non mi sembra una persona. Ma tutti mi dicono distrutta. Sei così allegra. Ma perché era peggio star lì ad aspettarlo mentre non mi scriveva che sapere che non mi scriverà più e aspettarlo così romanticamente per anni? Vabbè, hai trovato una soluzione. L'ho trovato, sì. Quindi sei in una fase mistica. Sì. Aspetti l'illuminazione. Sì, adesso voglio ricominciare. E se lo incontri, che fai per caso? Sorrido. Ciao, ci incontreremo. L'altro giorno ho parcheggiato il motorino e sotto casa tua? No, cioè ero nel quartiere dove abita anche lui. Quando sono andata a riprenderlo c'era la sua macchina parcheggiata che quasi baciava il mio motorino. Era proprio lì. Si ma lui baciavano, non... sì. L'ha fatta apposta, l'ha accostata apposta. Ma figurati se si ricorda, no, che quello fosse il mio motorino. No, però è fotografata, sì. La macchina? Sì, col motorino che si bacia. No. No, perché poi se la fotografavo gliela mandavo su WhatsApp, quindi ho fatto no, non la fotografo. E li vedi, anche i nostri mezzi si baciano. Esatto, e no, poi io ho detto no, vabbè, lasciamo stare. Dormi ancora con la sua maglietta addosso? Sì. Certo. Sempre? Certo, me la metto sempre quando devo fare. E lui cosa ha di tuo? Ha un sacco di cose, io gli ho regalato. Regali bellissimi. Ma gli ho fatto un sacco di regalini, lui non mi ha mai regalato collier nulla. Di diamanti, orologi d'oro. No, lui non mi ha regalato nulla. Ma gli uomini non... Niente, io gli ho adesso regalato. Adesso non è per essere tirchi. Molte volte un uomo non ci pensa ai regali. No. Una cosa non ci pensa proprio che faccia piacere un regalo. Lo dico perché parlo per me, non mi viene in mente, ma non perché... Ma non è vero, lui gli veniva in mente, perché mi ha raccontato che una della quale si era infatuato gli aveva comprato un regalo bellissimo. Cosa? Era uno strumento del valore di... Musicale. Sì, uno strumento musicale di super valore e gli aveva regalato questa cosa e poi... Migliaia di euro? No. Centinaia? Sì, e però non gliel'aveva mai dato perché poi è andata male. Ma uno strumento a fiato, a corda, percussione? È uno strumento. Ma dimmelo su. Corde. No, non lo so, non mi va di dirlo. Vabbè, una chitarrina. Sì, una chitarrina. In doppio senso. Sì. Lei doveva regalargli cosa? Clarinetto. Non lo so, comunque insomma non mi ha fatto manco il regalo, gli ho regalato tutto. Vabbè, dai, almeno non c'è la cosa che te li devi restituire, non c'è niente da restituirgli, giusto la maglietta, va lasciata a casa sua. Vabbè, quelle me le tengo. Magliette pubblicitarie, quelle che regalano? Sì. Ho scritto sopra la benzina, olio, cambio dell'olio, tre cambi una maglietta. No, sono magliette. Vabbè. Dico, boh, cose tipo... La porti sotto i vestiti? Adesso? No. La tieni come una sacra sindone? No, le uso come pigiamoni. Ma le lavi ogni tanto, no? Sì, le lavo. Perché lui le ha indossate? Certo, però. Quindi vabbè. Senti ancora il suo odore addosso? No, mai da t'hanno fatto, sai quante lavatrici? Vabbè. Beh, almeno chiedi se ti porta una maglietta usata ogni tanto, te la manda. Per tirare avanti. Come quelli che si comprano le mutandine. Sì, come i giapponesi, comprano le mutande usate. Potrei, però no, vabbè, tanto ormai non ci sento, cioè non lo sentirò, no, più fino a che non radio, torna. Sentirà per radio e capirà cosa si perde e ti chiama. Subito. L'hai fatta apposta di incontrarmi allora? Subito. Erano a posto, vabbè. Caro uomo deluso dalla vita, questa ragazza pulsa di desiderio per te, se vuoi chiamala, se no fa un po' te. Certo, dietro l'angolo c'è il rischio che ti voglia far fare altri due o tre figli e ti voglia accasare a vita a casa tua, decidi te, poi se vuoi è così. Ciao, buon viaggio. Ve la ricordate Lady Chat, la signora che non riusciva a staccarsi dal monitor del suo computer, che per lei era lo Stargate, che metteva in comunicazione il mondo quotidiano con il mondo dell'illusione. Anche Lady Chat, come la ragazza sentimentalmente instabile, cerca una persona che abbia serietà, dimostri serietà. Chissà cosa vuol dire, che gli uomini devono essere seri, perché devono essere seri sulla cosa che è meno piena di serietà nell'universo, che è proprio l'amore, che non richiede serietà, quando mai. Per una storia d'amore bisogna essere seri, meno si è seri e più si ha possibilità di godersela fino in fondo. Beh, anche Lady Chat sicuramente è uscita dal suo periodo di astinenza, perlomeno l'ultima volta che l'ho sentita mi ha giurato che lei mai più avrebbe fatto queste cose, ma la vedo piuttosto rilassata e appagata, non mi sembra che abbia smesso. Fatti del male fino in fondo, raccontami le ultime esperienze, perché le vecchie ormai, allora, le conosco tutte. Le ultime, vabbè, ti racconto proprio l'ultima, ok? L'ultima che è proprio fresca, proprio di giornata. Dunque, questo tipo che lo becco ovviamente in chat, una persona carina, perché tu sai che poi, cioè, io depinno all'istante le persone che non si presentano con garbo, educazione, gentilezza. Questo aveva tutte queste. Quindi solo i furbacchioni rimangono con te. Scusami? Solo i furbacchioni, quelli che riescono a simulare, a far finta d'essere. Sì, sono proprio bravi. Sono proprio bravi. Oppure sai che cos'è? Che alla fine ti dicono esattamente quello che tu vuoi sentirti dire. Vabbè, no? quello è il sistema. Per ottenere il risultato, così bisogna. Certo, certo. Vabbè, sì, visto che lo sai, non ti stupire. Continuo a ripeterti che è così puerile, è così infantile questa cosa. Eh sì, infantile, però guarda caso, alla fine portano a casa, cioè, scompanatico. Ma che cosa ci guadagnano queste persone? La fettina di mortadella da mettere dentro il panino, cosa ci guadagnano? Quello. Sì, l'antica cosa. Va bene, ma quanti anni c'hai? 15 anni? Non ce l'hai 15 anni? Sei un uomo maturo, c'hai 50 anni, per cui ti poni e ti metti in una società con una certa qualifica, con una certa posizione. Sì, ma ci avranno anche 6 mogli, 10 figli, qualcosa da inventarsi per riuscire a prendere qualche garzoncella allegra come te. Scusa. Mica posso andare lì con lo stato di famiglia e tu non c'ha bocca. No, anche se poi tirandolo fuori la mano dalla tasca mi ha fatto vedere la carta d'identità, il codice fiscale. Che me ne frega. Il codice fiscale? Cose. Perché c'è scritto. Sì, ha tirato fuori dalla tasca insieme a dei soldi, cioè, le sue i suoi connotati. Ma io non vado cercando. Perché c'era scritto non coniugato sulla carta d'identità. Ma non lo so. Non lo scrivono più adesso, non lo richiedi, non lo scrivono più. Ma lo richiedi, infatti, pure quello, cioè che ti chiami il nome e cognome, me l'hai detto, questa cosa è vera. Abbiamo anche dei contatti su Facebook, quindi esisti, ma al di là dell'esistenza poi veramente è tutto fumo niente. Ma tu l'hai visto in carne ed ossa, solo ancora? Ci siamo incontrati, sì, quindi hai raggiunto lo scopo, hai conosciuto una persona. Sì, sì, è dopo l'incontro che poi è diventato veramente una persona, cioè, come magari io immaginavo pure che fosse, perché anche le scuse che mi arrogava anche prima dell'incontro erano talmente puerili. Ma le scuse per cosa? Il suo scopo non era incontrarti? Che presumo di sì, come era il mio. Allora che scuse aveva messo? E prima di incontrarmi? Sì. Ma sai, questi viaggi di lavoro, fatalità sempre il weekend, una volta. Vabbè, questa è vecchia, se ancora credi a queste cose. Infatti sono tutte cose trite e ritrite. Cioè, uno nemmeno più dovrebbe spiegarle queste cose, chiaro? Uno che vuole conoscere una persona fuori del mazzo e la cerca in rete, è chiaro che non ci va poi il fine settimana a spasso. Beh, certo, ma. Vedi, la becca nell'orario di lavoro dalle 14 alle 15.30, come fanno tutti gli impiegati. Come fanno tutti, poi fino alle 20.30 ci sei, poi improvvisamente sparisci, perché poi le scuse che roghi sono che sei stanco, che il telefono era scarico, oppure c'è la partita di pallone, bla bla bla, e poi alle 23 improvvisamente, opla, tipo Dracula, ciao, buonanotte, sogni d'oro. Perché la moglie, ovvio, la moglie va a letto prima, quindi mentre lui si lava i denti, manda il messaggino. Manda il messaggino, ovviamente non vocale, perché non è che può parlare, quindi soltanto scritto. Laddove durante tutta la giornata mi mandi messaggi vocali, poi la sera però no. Sì, però tu mi devi dire una cosa. Una volta dato per scontato, se tu cerchi un uomo in rete che abbia un'età media di 50 anni, uno su 100 è libero, garzoncello, ragazzetto che ti dedica il suo tempo. Gli altri 90 saranno persone o con delle storie, con delle storie in piedi, delle storie finite, o comunque delle situazioni complicate, capito? Questo te lo devi immaginare e basta. Quindi pigliatelo per il tempo che te lo puoi prendere, pigliatelo, che ne so, dalle 2 alle 3 e mezzo tutti i giorni. Che ti ma devo non dire? È che io volevo sposarmi con questa persona. Ma allora perché ci rimani male? Se non ti... non è neanche, tra virgolette, il mio tipo. Ma, sì, ma che vanno a fare il fine settimana romantico a Capri? Ma che ti importa, scusa? Ma che mi frega a me? Ma devi starti così, con delle scuse allucinanti, così sciocche, così stupide. Ma la scusa è, c'è l'obbligo della scusa quando c'è un'attesa dall'altra parte. Tu gli dici subito: guarda, a me non mi interessa niente, dimmi le ore che sei libero, tanto per me sei un giocattolo, quindi dimmi le ore in cui posso giocare con te e quelle ore mi organizzo. Ma sai, cioè, esprimermi proprio in questi termini mi sembrerebbe squalificante per la persona con la quale sto parlando e anche per me stessa. E ma lui quello vuole, che altro vuole, che pensi che altro voglia? Ma mi sta bene anche a me, cioè voglio dire, ma perché non dirselo cercando... chiaro allora? Perché fingere di fare fidanzati? Questo non capisco. Ma non voglio la finzione, ma non voglio neanche le bugie. Quelle mi stanno proprio sulle... Vabbè, ma mi sembra che sia un po' retro, perché oggi le persone minimamente emancipate lo dicono subito, dichiarano subito il loro livello di disponibilità, capito? Chi è che fa? Alberto Sordi che si leva la fede e fa finta che scappa, ma fa morire da ridere. All'epoca c'era la fede e c'era il cerchiettino bianco che rimaneva, capito, tutito, sì. Adesso non c'è più neanche quello. Ma certo, chi la porta più la fede? Ma che questo tipo, cioè, ora ti racconto com'è andata, perché dopo che ci siamo visti e lui per qualche giorno poi ha continuato a mandarmi bacetti e baciotti e messaggini vocali, poi improvvisamente, laddove si stava avvicinando il weekend, mi manda un messaggio vocale esprimendosi grosso modo in questi termini. Scusami cara, io non so proprio che cosa mi è successo, ma ho preso un colpo di vento che... parte il colpo di vento, non lo prendi, casomai prendi un colpo di strega. Ma vabbè, che c'ha la voce, che stava male, c'ha l'influenza. E ci può stare, ok, con questi tempi ci può stare. Scusami, ma in quel momento mi sento male, così, capito? Così faccia questa voce qua. Mia, un'amica. Sì. Ok? E io le ho fatto sentire subito questa registrazione allucinante. E lei, poverina, ci credeva, diceva, dai. Sta male, si sente. Ci può stare. Ma quale ci può stare? Ma sono tutte cavolate. Mi piacerebbe tanto telefonargli con un altro numero che lui non conosce e sentire come risponde. E lei mi fa, tranquilla, lo faccio io con il mio telefono. L'avete chiamato col gli numero? Gli dico che ho sbagliato. Dico, beh, però metti viva voce perché io lo voglio sentire. Lei lo chiama dicendo che comunque aveva sbagliato telefono e cercava il signor X. E lui tranquillamente, con una voce bella come quella che può essere la mia e la tua in questo momento, le risponde che no, non era il signore che stava cercando. Quindi simulava la voce così. Ciao, dopo un po' l'ho richiamato e quindi con un messaggio. E c'era la voce ancora lui così, malata. Ancora peggio, perché si sta peggiorando questa situazione, ora non riesco più. Dai, però mi sta persino simpatico, poraccio, che pensate. Ma tu vieni a fregare a casa dei ladri. Vabbè. Il treno va. Si informano i signori passeggeri che fra qualche minuto passerà in carrozza il personale del treno per offrirvi un piccolo spuntino. Non aveva voglia di uscire con te. Ma dimmelo, ma cioè, non sarebbe stato più elegante? Anche perché poi, tra l'altro, l'ho anche definito un uomo elegante. Perché dai, ma permetti. Ma quando l'hai conosciuto, la prima volta che l'hai visto, com'era? Ah, una persona comunque caruccia, che si presenta bene. Quindi è stata una bella uscita, un bel incontro. Ma sì, ma pensa un po' che mi ha aperto anche la portiera della macchina. Come è andato poi alla fine? Com'è finita la cosa? Bene? A cena insieme? Sì, abbiamo preso un aperitivo, abbiamo concluso la serata in un modo molto carino, molto soddisfacente per tutti e due, immagino. Però poi, ecco, voglio dire, ma non è quello il discorso, è che è poi l'epilogo. E che altro volevi dopo? Che il giorno dopo ti chiamasse... Cara, non riesco più a vivere senza di te, no, con la moglie che è russa vicino. Non sarebbe stato bene neanche a me, ma non sarebbe stato più. Ma elegante. A quella sera che ora è tornato a casa, quella sera dell'epilogo? Ma verso le 1. Le 11. Ma una cosa veloce. Sì, Era entrato in orario canonico per una riunione di lavoro. Sì, infatti, sì, la riunione di lavoro questo lo potrebbe consentire. 11:30. Quindi tranquillamente, ma... guarda, continuiamo la nostra vita, se poi magari ci vediamo ogni 2 o 3 mesi, oppure... Cioè, ma non sarebbe stato più carino che mimare un colpo di vento, come lo chiama lui, allucinante, così puerile? Colpo ma, di vento. Dai, ma insomma... Tu che sei una persona così elegante, che vai in giro a fare riunioni di lavoro con la cravatta rossa piuttosto che con il papillon. Beh, poco altro. Beh, senti, elegante, io ci sono andato anni col papillon, ancora mi vergogno. Cioè, ho ritirato tutte le foto, è una cosa da infatti ero un povero burino di Perugia arrivato a Roma per fare l'eccentrico, ho messo il papillon, capito? Mi sembrava essere Gervaso, che ne so, ma è una coattata da caffoni di provincia il papillon. Io questa cosa è discutibile. Cioè, il papillon lo mettono i camerieri, capito? Lo metti se c'è un abito particolare, ma andai in giro il papillon, ma chi ti credi d'essere? Oh, a me piace. Lo so, ancora c'è che beh, ecco, a c'è me chi... piace, poi dipende chi... da come lo metti, in quale contesto. Vabbè, andava col papillon, sedotto, perché aveva questo papillon. La seduzione non è che ci sia stata una seduzione, c'è stata un'attrazione, come io presumo di aver attratto lui, ma... Sì, tanto che fa finta di star male per non rivederti, pensa. Ma che questa è una cosa allucinante, ma io penso che neanche un adolescente si sarebbe rifugiato dietro una scusa così ma banale. Ma un adolescente non c'ha bisogno di scuse, dice guarda, c'ho da fare, ciao. Ma c'ho da fare, ma non, cioè, non me va più dove dite, cambiamo aria. Ma ce ne saranno state delle scuse, se non mi mare una daucedine, no? Non lo so, io penso che sono le donne che hanno... purtroppo condizionato gli uomini a essere ipocriti, perché alla fine c'è sempre questa sorta, vedi, tu già volevi un proseguo sentimentale e lui era uscito una sera, ha preso l'aperitivo, era stato bene, no, ciao, ma chi si è visto, che io non visto. Avrei voluto il proseguo sentimentale, avrei soltanto voluto ed esatto un comportamento che qualificasse la persona per quella che io pensavo che fosse, una persona elegante, una persona di un certo elegante, valore. Dai, fare ciao. Neanche avrei soltanto voluto che lui mi dicesse tranquillamente, anche con un messaggio vocale, se non avevi abbastanza palle di dirmelo a voce: senti, tranquilla, ci vediamo fra 2 mesi, non ci vediamo più, è stato bello, ciao, buona vita. Ma non sarebbe stato più maturo, no? Sì, me ne rendo conto, scusami, ma faccio difficoltà a parlare in questo momento. Preso un po' di freddo. Anche tu? Vabbè, ma ci sono i colpi di vento, capito? È sempre la stessa cosa. Scusa, ce la faccio ma allora è un'epidemia. Non ce la faccio ma allora più. Ditelo. Scusa tanto. Ma la prossima volta che ci incontriamo parliamo di più. Guarda, parliamo di religione la prossima ce la faccio volta. Parliamo di viaggi e scusami parliamo proprio. Di... Andiamo a mettere a letto, prendo un'aspirina. Va, basta mettere a letto. Vado a letto dove, che ne so. Buona giornata, ma abbasso il sedile. Ciao. Ciao. Oddio. Siamo arrivati all'audiomessaggio. Questa volta ho avuto un po' di difficoltà prima di scegliere questo come quello che avrei proposto a chi mi ascolta. Perché? Perché è un po' fuori target. Non è fuori target nella circostanza anagrafica della persona che mi scrive. È fuori target perché alla fine non c'è nulla di strano, non c'è nulla di particolare, non c'è nulla di trasgressivo, non c'è nulla di Balzano. È una perfettamente normale, lineare storia di una persona che a un certo punto della vita si guarda indietro e trova il vuoto. Gentile Gianluca, sono una 65enne con alle spalle gioie e dolori. Le gioie le definirei frivole, ma mi appagavano. Non ho avuto figli, in quanto ancora oggi convinta che la maternità pretende giustamente un pezzo di noi stessi. Egoisticamente mi sono dedicata al lavoro, più facile e meno impegnativo da gestire. Ho avuto amori, quello con la A purtroppo è mancato, ma fortunatamente ho conosciuto la pienezza di questo sentimento. I prima di lui sono stati carini ed evanescenti, il dopo lui è stata una lunga relazione con convivenza che è terminata, piuttosto eufemismo, bruscamente. Eccomi giunta alla gestione della solitudine. Terminato il lavoro e la convivenza, molte amicizie si sono dissolte. Vuoi per il lavoro che era lontano da dove ora vivo, vuoi perché gli amici in comune con l'ex si sono divisi, come nel PD. Anche questa ascoltatrice, 65 anni, non so perché parla di sé come una vecchia cadente, una quasi mia coetanea. non mi sento così disastrato, nonostante che la vita molte volte mi aveva messo davanti a cimenti non certo facili da sopportare. Però anche lei concentra tutta l'equazione di riuscita della sua esistenza dalla percentuale di storie d'amore che abbia avuto. Non ha storie d'amore, improvvisamente si sente fuori dal mondo, tanto che persino gli amici sembrano dimenticarsi di lei. Perché? Perché non lo so. A 65 anni si comporta come una liceale che, quando si lascia col fidanzatino, parte delle amiche stando alla parte del fidanzatino e parte delle amiche stando con lei, ma dalla sua parte pare non sia rimasto nessuno. Ho fatto un ragionamento, vista l'età. Chiusa la porta all'altro sesso, mi resta il mondo femminile e mi sono trovata con sete di amiche, di parole da condividere, di passeggiate, di viaggi. Per aiutare gli altri e me stessa mi sono data al volontariato su più fonti: Caritas, Sportello Donna, presenza in una biblioteca, museo. Le giornate potrebbero definirsi piene, ma non trovo persone con cui condividere il tempo libero, terminati gli impegni, terminati i contatti. Ho anche pensato di rivolgermi a siti o a blog dove trovare coetanee sole con i medesimi interessi ed ancora il desiderio di ammirare la bellezza della vita, ma oggi sono così facili fraintendimenti. Ho esposto da donna il mio punto di vista sulla gestione della solitudine. Secondo il suo punto di vista, un uomo come coordinerebbe il vuoto silenzioso che si crea nell'intimo? Lei, cara amica, mi chiede il punto di vista di uomo. Il punto di vista di uomo è diametralmente opposto a quello di una donna. Non vedo nulla di quello che vede lei. Non vedo una sorta di rifugio nel volontariato, nelle buone azioni. Non vedo il trasformarsi in patronessa di carità, come se fosse ormai gli sgocci della vita. Queste cose non le può fare anche a 20 anni, anzi è molto più utile al prossimo quando è giovane piuttosto che quando lo fa come così, come piccolo diritto di acquisirsi delle benemerenze per andare in paradiso. Cosa fa la cioccolata con i mendicanti una volta l'anno? Cosa fa? Porta gli abitucci usati alle persone bisognose? Cosa fa per riempire la sua solitudine? Una persona che ha bisogno non deve essere un riempitivo di solitudine. Lei dice che si è rivolta a siti e blog per cercare coetanei con i suoi stessi interessi. Dice: ma sono così facili i fraintendimenti. Ma cosa è andata a cercare in dei siti per incontri lesbo? Quale fraintendimento può aver avuto cercando donne, dicendo che cerco delle cose da condividere? Che fraintendimenti? O perlomeno cercava donne che cercavano avventure, l'ha sconvolta, è andata nelle parti sbagliate, ma perlomeno, non lo so, si butti in qualcosa che le dia una differenza rispetto a quello che le mette così angustia e tristezza. Poi mi dice una frase che mi verrebbe di risponderle in maniera forse un po' crudele: come coordinerebbe il vuoto silenzioso che si crea nell'intimo. Quando si crea un vuoto silenzioso nell'intimo, o uno ci convive, è una scelta e ci sta bene, ma se questo vuoto silenzioso dell'intimo pesa tanto, uno cerca in qualche modo di riempirlo, si guarda intorno e vedrai, forse potrà anche trovarlo.